Il 1° maggio 1943 Borghese assunse il comando della 10ª flottiglia MAS. Il 14 settembre Borghese, dopo la caduta di Mussolini, stipulò un accordo con Max Bernhardshaus, comandante navale delle forze del Terzo Reich in Liguria, per combattere al fianco dei nazisti. Dopo la nascita della Repubblica Sociale Italiana, la 10ª MAS entrò a far parte dell'organico della Marina Nazionale Repubblicana. L'attività della 10ª MAS non si limitò alle incursioni navali contro le forze nemiche, ma furono costituiti anche reparti di fanteria che assunsero, al termine del conflitto, le dimensioni di una vera e propria divisione. Il 1° maggio 1944 fu ufficialmente trasformata in divisione fanteria di Marina Decima ed iniziò ad agire in Piemonte con funzioni di repressione della resistenza e in Friuli Venezia Giulia per il contenimento dell'offensiva dei partigiani jugoslavi. La formazione era formata da circa 3.500 uomini. Reparti della 10ª MAS furono schierati ad Anzio. Il battaglione Barbarigo, alle dipendenze della 175ª divisione tedesca e nelle linee difensive sul fiume Senio, presso Alfonsine, in provincia di Ravenna, con il battaglione Lupo, che agì anche contro i partigiani, in Toscana e sull'Appennino Ligure-Emiliano. A partire dalla seconda metà del 1944, quindi, la 10ª fu impiegata contro i partigiani e nei rastrellamenti di civili nelle zone dove agivano i partigiani, a fianco dei tedeschi. In queste azioni si registrarono rappresaglie, saccheggi, sevizie ed esecuzioni sommarie. La 10ª MAS agì in maniera assolutamente criminale. In un appunto per il Duce, il prefetto di Milano, Maria Bassi, scriveva: «Continuano con costante preoccupazione le azioni illegali commesse dagli appartenenti alla 10ª MAS. Furti, rapine, provocazioni gravi, fermi, perquisizioni, contegni scorretti in pubblico rappresentano quasi la caratteristica speciale di questi militari». Per richiamarlo all'ordine furono dati a Borghese 30 giorni di arresto in fortezza per non aver saputo tenere la disciplina tra i suoi reparti. Furono molti gli episodi di violenza criminale addebitati alle formazioni di Junio Valerio Borghese, tra questi quelli di Valmozzola, con uccisione di 12 partigiani in combattimento ed esecuzione sommaria di altri 8 partigiani catturati, di Crocetta del Montello, con uccisione di 6 partigiani e terribili servizie di altri arrestati, di Castelletto Ticino, con l'uccisione di 5 ostaggi, di Borgo Ticino, con l'uccisione di 12 ostaggi. Ed ora ascoltiamoci una canzone antifascista, Antifa, dei 99 Posse. Siamo solo esseri umani a cui è molto cara la vita. Ci sono in giro dei fascisti che sono pronti a farla finita con noi e con chiunque non si adatti al loro barbaro stile di vita. Ma noi non ci adattiamo, non indietreggiamo, combattiamo per salvarci la vita. E voi? Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, non ti nascondere se sei. Antifa, siamo un esercito ribelle. Antifa, che combatte per la sua pelle. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, noi promuoviamo convivenza. Antifa, contro razzismo e prepotenza. Antifa, leva il danno se non sei. Antifa. Antifa. Non siamo noi che per la strada andiamo in giro sempre in gruppo ed armati. Guagliù. Non siamo noi che ci proteggono la polizia e i servizi segreti. E a voi. Non siamo noi che promuoviamo l'odio e poi vendiamo falsi rimedi. No, noi. Noi siamo qui che resistiamo. Noi non abbocchiamo e non vogliamo gli indecisi tra i piedi. Non è prigione battere, ma se sapete difendere, tanto non gioca a damma, non c'è bruata a pennere. Non è questione battere, ma se sapete difendere, tanto non gioca a damma, non c'è bruata a pennere. Antifa. per la sua pelle. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, noi promuoviamo convivenza. Antifa, contro razzismo e prepotenza. Antifa, leva da mezzo se non sei antifa. Siamo i gay, le lesbiche, siamo i nordafricani, siamo ebrei, musulmani, siamo vestiti strani, siamo ispanici e romeni, siamo rom, siamo slavici, ma napoletani e fatica, ma Milano, mariuolo, comunisti, tossici e disoccupati, al di là se abbiamo scelto, se ci siamo nati, siamo tutti diversi e severa, siamo diversi e facimo vera. Fascismo e libertà. Se tu associ queste cose, fate lì che ha fangurato. Il fascismo non è libertà, il fascismo è una minaccia. E se uno ci minaccia, fategli un ramma in faccia. Libere cumanà, e non dopo parlare. Benvenuti nel regime delle loro libertà. Libere di imbrugliare e pure di sparare. Chi dice no al regime grida in coro antifa. Antifa. Antifa. Alza le mani, siamo noi antifa. Non ti nascondere se sei antifa. Siamo un esercito ribelle antifa, che combatte per la sua pelle antifa. Alza le mani, siamo noi antifa. Noi promuoviamo convivenza antifa, contro razzismo e prepotenza antifa, leva da mezzo se non sei antifa. Negli ultimi mesi del 1943 il battaglione Lupo della decima MAS venne riorganizzato e rafforzato per essere schierato a metà dicembre nella Valle del Reno contro l'ottava armata alleata che avanzava verso Bologna. Trasferito a inizio marzo a Marostica, in provincia di Vicenza, il reparto venne richiamato al fronte il 21 aprile e schierato sulla riva sinistra del Po, in provincia di Rovigo, per assicurare la ritirata delle colonne armate nazifasciste. Il battaglione Lupo cedette le armi a Padova il 29 aprile 1945. Negli ultimi mesi del conflitto, Borghese avviò contatti con la Regia Marina del Sud per favorire uno sbarco italo-alleato in Istria contro i partigiani di Tito. Lo sbarco, studiato dalla Marina Italiana del Sud, si sarebbe avvalso dell'appoggio delle formazioni fasciste e della decima, con o senza l'intervento alleato. L'opposizione inglese fece fallire questo piano. Il 25 aprile 1945 la decima MAS rimase nella caserma di Piazzale Fiume in Milano. Si svolsero trattative con un maggiore in rappresentanza del generale Raffaele Cadorna. Il 26 aprile 1945 la decima MAS fu sciolta. Borghese fu preso in consegna dalla polizia partigiana. Il 9 maggio il principe Nero fu contattato dall'agente dei servizi segreti italiani Carlo Resio e dall'agente dell'OSS James Angleton, che lo informarono che l'ammiraglio Raffaele de Courten intendeva incontrarlo a Roma. Dall'OSS nascerà nel 1947 la CIA. In seguito, l'11 maggio, con l'aiuto dei servizi segreti americani, scortato dal capitano Carlo Resio da Angleton, fu trasferito a Roma, dove trascorse un breve periodo prima di essere arrestato dalle autorità americane il 19 maggio per essere trasferito nel campo di concentramento di Cinecittà. Borghese riuscì così a sottrarsi alle forze partigiane che intendevano fucilarlo. Nel periodo che passò sotto la tutela degli americani riuscì a farsi accordare la protezione dei servizi segreti statunitensi, con i quali era già in contatto da diversi mesi prima della fine della guerra. In particolare prese contatto con il responsabile del controspionaggio dell'OSS James Angleton. In seguito fu sempre Angleton a reclutare altri ufficiali della decima MAS nei servizi segreti americani per le azioni anticomuniste. Il governo italiano chiese agli alleati che Borghese gli venisse consegnato per poterlo processare a Milano. Grazie alla pressione dell'OSS e dei servizi italiani, Borghese ottenne di essere giudicato di fronte a una corte d'assise a lui favorevole, presieduta da Caccavale, ex vicepresidente dell'Unione Fascista per le Famiglie Numerose e amico del principe Gian Giacomo Borghese, ex governatore fascista della città di Roma e parente di Junio Valerio. Come hanno poi confermato i numerosi documenti declassificati dell'OSS, Wolf e Dulles collaborarono insieme per il riciclaggio delle forze militari fasciste nei servizi segreti in funzione anticomunista. Americani e inglesi nutrivano infatti un vivo interesse per la decima massa, soprattutto per la sua attività di contrasto alle forze partigiane comuniste, attuata anche con il metodo dell'infiltrazione a scopi di provocazione e spionaggio. Il 28 dicembre 1994 il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton declassificò molti documenti della CIA. Da essi emerge che Gladio esisteva già prima della sua data ufficiale di nascita nel 1956, che il nucleo iniziale era costituito da una formazione clandestina di ex appartenenti alla decima massa. Era stata inoltre raccolta una descrizione dettagliatissima della struttura della decima massa e i nomi dei suoi appartenenti per utilizzarli in funzione anticomunista. Tutti gli appartenenti alla decima massa su cui gli americani riuscirono a mettere le mani furono inviati immediatamente in un campo di addestramento negli Stati Uniti. Inoltre, alla fine del 2003, la desecretazione degli archivi statunitensi rivela che gli uomini della decima massa furono impiegati in appoggio alla banda di Salvatore Giuliano nella strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947. Borghese fu prosciolto dalla sezione istruttoria del Tribunale di Roma dall'accusa di omicidio per aver fatto fucilare 43 partigiani dai reparti ai suoi ordini e venne rinviato a giudizio per cospirazione con il nemico dopo l'armistizio del 1943, di rastrellamento di partigiani, di azioni di saccheggio, spionaggio e per concorso in un numero limitato di omicidi. La Corte di Assise lo giudicò colpevole di collaborazionismo con i tedeschi, in azioni di rappresaglia e concorso morale nella strage di partigiani catturati. Fu condannato a 12 anni di reclusione. Grazie all'amnistia di Togliatti, però, il giorno stesso della lettura del dispositivo della sentenza, il 17 febbraio 1949, la Corte dispose l'immediata scarcerazione del condannato. Ed ora ascoltiamoci Flauto antifascista del Canzoniere delle Lame. Thank you. Il 23 giugno 1949, Luciano Berti, membro della divisione Littorio durante la Seconda Guerra Mondiale e poi membro del Fronte Nazionale, viene condannato per apologia di fascismo, ma questo non gli impedirà di fare carriera come militare. Lo ritroveremo nel tentativo di colpo di Stato di Borghese del 1970 al comando di circa 200 militari del Corpo Forestale dello Stato, dove, partendo dalla scuola forestale di Città Ducale, si appostò sulla Via Olimpica non lontano dalle sedi televisive della RAI per occuparle. Borghese aderì al Movimento Sociale nel novembre 1951 e fu acclamato presidente onorario, carica che mantenne fino al 1953. Nel 1960 la massoneria americana impose l'unificazione del Grande Oriente d'Italia con il supremo consiglio della Serenissima Gran Loggia degli Alam del principe siciliano Agliata di Montereale, che Pisciotta aveva tirato in causa a proposito della strage di Portella della Ginestra e il cui nome riaffiorerà nel tentativo di colpo di Stato di Junio Valerio Borghese. Nel dicembre 1965 Borghese ricevette da Michele Sindona forti somme di denaro provenienti dall'Opus Dei spagnola. Il 13 settembre 1968 fondò il Fronte Nazionale allo scopo, secondo quanto riportato in informative dei servizi segreti, di sovvertire le istituzioni dello Stato con disegni eversivi. Nel programma del Fronte si afferma: ristabilire il corporativismo, abolire i partiti politici e i sindacati, dar vita ad uno Stato forte. Il Fronte Nazionale agirà in stretta collaborazione con le organizzazioni terroristiche neofasciste Ordine Nuovo di Pino Rauti, Avanguardia Nazionale di Stefano Delle Chiaie ed Europa Civiltà di Franco Antico, collaboratore del SID. Insieme a Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale costituì gruppi clandestini armati. Nel 1963 ottenne l'incarico di presidente del Banco di Credito Commerciale Industriale, che fu in seguito acquisito da Michele Sindona. Nel 1969 in Italia ci furono stragi ed attentati, come la strage di Piazza Fontana, che erano finalizzate a destabilizzare il paese in modo da creare una richiesta di ordine e un regime autoritario. Era necessario, per raggiungere questo obiettivo da parte delle forze reazionarie, che le responsabilità degli attentati fossero attribuite alle forze di sinistra per favorire un colpo di Stato di destra. Junio Valerio Borghese dichiara: «Il regime democratico è logoro e fatiscente, basta un colpetto per farlo cadere». Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970 Borghese attuò un colpo di Stato, poi interrotto con la collaborazione di paramilitari appartenenti a formazioni del neofascismo e di numerosi alti ufficiali delle forze armate e funzionari ministeriali. Il piano prevedeva l'occupazione dei ministeri dell'Interno e della Difesa, della sede della RAI, degli impianti telefonici e di quelli di radiocomunicazione. Questo il messaggio che Junio Valerio Borghese avrebbe dovuto pronunciare se il colpo di Stato avesse avuto successo. Italiani, l'auspicata svolta politica, il lungamente atteso colpo di Stato ha avuto luogo. La formula politica che per un venticinquennio ci ha governato e ha portato l'Italia sull'orlo dello sfacelo economico e morale, ha cessato di esistere. Le forze armate, le forze dell'ordine, gli uomini più competenti e rappresentativi della nazione sono con noi, mentre possiamo assicurarvi che gli avversari più pericolosi, quelli che per intendersi volevano servire la patria allo straniero, sono stati resi inoffensivi. Nel riconsegnare nelle vostre mani il glorioso tricolore, vi invitiamo a gridare il nostro prorompente inno d'amore. Italia! Italia! Viva l'Italia! Scrisse il giudice Salvini. Secondo i programmi, il cosiddetto golpe borghese che fu tentato nel dicembre 1970 doveva in realtà avvenire un anno prima e la collocazione delle bombe nel dicembre 1969 aveva proprio la finalità di far accelerare questo processo, comportando nel paese una più diffusa richiesta d'ordine e di discredito delle forze di sinistra in genere, che sarebbero state additate come responsabili dei fatti. Vi è una traccia documentaria di una nota del SID in data 16 gennaio 1969, nascosta come altre relative alla fase preparatoria del tentativo del 7 dicembre 1970 dal generale Vito Miceli, e riemerse solo quando, dopo le indagini del giudice Giovanni Tamburino, era diventato inevitabile sbloccare il segreto su alcuni atti del reparto D. Fin dal 1969, quando Miceli era a capo del servizio segreto dell'esercito, il SIOS, aveva avviato contatti con i congiurati di Borghese. Anche Sergio Calore, in un interrogatorio del 21 ottobre 1991, militante di Ordine Nuovo, poi diventato collaboratore di giustizia, affermerà: secondo il programma del cosiddetto golpe borghese, la collocazione delle bombe nel dicembre 1969 aveva proprio la finalità di far accelerare questo progetto, comportando nel paese una più diffusa richiesta d'ordine e il discredito delle forze di sinistra in genere, che sarebbero state additate come responsabili e corresponsabili dei fatti. Nell'estate del 1974 vennero alla luce le responsabilità del SID nella strage di Piazza Fontana, nel golpe borghese, nell'organizzazione della Rosa dei Venti, del colonnello Amos Piazzi ed in altri attentati e stragi. Questo portò ad una lotta di potere fra Vito Miceli e Gianadelio Maletti, capo dell'ufficio D del SID, che portò poi alle dichiarazioni di Giulio Andreotti, che portarono a individuare il generale Vito Miceli come uno dei congiurati del tentato colpe di Borghese. Precedentemente, infatti, Maletti aveva incaricato il capitano Labruna, già autore di depistaggi per la strage di Piazza Fontana, di stendere un rapporto su Borghese. Labruna si mette in contatto con Remo Orlandini, costruttore romano e luogotenente del Principe Nero, e riesce a fargli raccontare tutto sul tentato golpe, facendo un elenco completo degli aderenti al progetto e a registrarlo. Ma dalle 56 pagine del rapporto Labruna alla magistratura ne arriva una minima parte, con molti nomi eliminati, come ad esempio quello di Licio Gelli, Stefano Delle Chiaie e del generale Torrini. Infatti si parlerà di Malloppone e Malloppino, relativamente alle due versioni. Più tardi, nel 1991, Labruna racconterà che è stato Giulio Andreotti a far ridurre il rapporto. Intorno alla mezzanotte del 7 dicembre, l'allora capo dell'ufficio D del SID, Guasca Querazza, informò Miceli dell'occupazione del Viminale da parte degli insorti. Miceli disse di non prendere iniziative perché ci avrebbe pensato lui. Lasciò trascorrere quindi due ore, dando modo ai golpisti di ritirarsi in tutta tranquillità. Al golpe si stima che parteciparono circa 20.000 uomini attivi e altrettanti pronti ad essere attivati, di cui circa 3.000 ufficiali delle varie forze armate, servizi segreti e carabinieri iscritti alla massoneria. La rete cospirativa, come si saprà in seguito, si estendeva in tutta Italia. Al sud, in base all'esperienza dello sbarco alleato, Borghese si era assicurato l'appoggio della mafia. Al nord, molti imprenditori si incontrarono con il Principe Nero nel castello di Capo Santa Chiara, a Bocca d'Asse, per garantire finanziamenti. Ci furono concentramenti di golpisti in diverse parti d'Italia, come Venezia, Verona, nella zona del lago Trasimeno, sulla Sila in Calabria ed in Sicilia. La mafia mise a disposizione 2.000 picciotti. I mafiosi arrivati nella capitale durante il colpo di Stato erano stati alloggiati a Residence Cavalieri Hilton ed avevano il compito di uccidere il capo della polizia Angelo Vicari. Anche l'Andrangheta era stata mobilitata in provincia di Reggio Calabria, al comando di Giuseppe Nirta, molto legato a Stefano Delle Chiaie. Questa la cronaca del tentativo di colpo di Stato raccontato dalla trasmissione La storia siamo noi di Giovanni Minoli. A Roma, la notte tra lunedì 7 e martedì 8 dicembre 1970 piove, piove molto. Curiose e strane manovre avvengono attorno e dentro la capitale. Manovre che puntano a colpire al cuore lo Stato italiano, i suoi nervi strategici, le sue istituzioni e gli uomini delle istituzioni. Gruppi di cospiratori si riuniscono in punti diversi della città. A Montesacro, in un cantiere di proprietà dell'ex repubblichino Remo Orlandini. In via Eleniana, vicino alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, nella palestra dell'Associazione Paracadutisti di Sandro Saccucci. In via Arco della Ciambella, nel cuore di Roma, nella sede dei militanti di Avanguardia Nazionale, la formazione neofascista di Stefano Delle Chiaie. Intanto una colonna di 200 guardie forestali guidate dal colonnello Luciano Berti è pronta a muoversi da Città Ducale, vicino Rieti, in direzione della capitale. L'operazione, denominata in codice Tora Tora, coinvolge altri luoghi della penisola. Squadre di estremisti della destra extraparlamentare sono pronti a muoversi anche dal Veneto, dalla Liguria, dall'Umbria, dal resto del Lazio, dalla Campania. Il colonnello Amos Spiazzi, con i suoi uomini, è pronto a occupare Sesto San Giovanni, a nord di Milano. Il comando politico dell'operazione è a Roma, in via Sant'Angela Merici, negli uffici del maggiore Mario Rosa. Da qui alle 22.15 parte l'ordine dell'azione. La macchina del golpe è in moto. È l'ora X. Obiettivi dei congiurati. Occupare gli studi RAI di via Teulada, il Ministero degli Interni e della Difesa. Uccidere il capo della polizia, Angelo Vicari. Rapire il capo dello Stato, Giuseppe Saragat. Ore 23. Alcuni obiettivi strategici come il Viminale sono già raggiunti. Dall'armeria vengono prelevati 200 mitra. Centinaia di uomini sono già in azione. Ore 1:40. All'improvviso dalla centrale politica arriva il controordine. Smobilitare. Tutti a casa. Fu Borghese stesso ad interrompere il colpo di Stato e ad ordinare la ritirata, ma si rifiutò di spiegare le ragioni, persino ai suoi più fidati collaboratori. Lo fece dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata. Alcune fonti individuano in Licio Gelli, capo della loggia massonica segreta P2, l'autore della telefonata. Secondo altre fonti fu invece Giulio Andreotti, per il tramite del suo segretario Gilberto Bernabei. Secondo altre fonti ancora fu invece Vito Micheli, il capo del SID. In seguito alla desecretazione di documenti statunitensi si è saputo che i servizi segreti USA erano a conoscenza del tentativo di colpo di Stato. Anche Andreotti, comunque, aveva tenuto contatti con Junio Valerio Borghese, ma si era sempre servito per questo di uomini di poco conto, screditati agli occhi di chiunque, soprattutto a quelli dei magistrati. Andrea Brogi, terrorista fascista di Ordine Nuovo, e Paolo Aleandri, altro neofascista di Ordine Nuovo, dichiareranno di aver appreso che era Licio Gelli il responsabile del controordine e quindi il supervisore del colpo di Stato. Aleandri inoltre dichiarò: quando i gruppi armati della destra extraparlamentare, Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale e alcuni reparti delle forze armate fossero riusciti a impadronirsi dei centri nevralgici del potere, RAI, Presidenza della Repubblica, Ministero degli Interni, eccetera, sarebbe dovuto scattare un piano insurrezionale esistente nelle casseforti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con l'arresto per finalità antinsurrezionali di sindacalisti, esponenti politici, militanti ed altri interventi analoghi. L'attuazione del piano avrebbe consentito l'instaurazione di un governo militare sostenuto dalle forze istituzionali che avevano dato il tacito assenso all'operazione. Al maxi processo contro la mafia svoltosi a Palermo ed iniziato il 10 febbraio 1986, Tommaso Buscetta, boss mafioso pentito, dichiarò che c'era stato un gran lavorio nel 1970 fra mafiosi e golpisti di Junio Valerio Borghese ed a proposito del contrordine al golpe disse: «In quei giorni c'era la flotta russa nel Mediterraneo e agli americani non piaceva questa circostanza». E gli americani, dice Buscetta, erano al corrente del colpo di Stato, organizzato da Borghese. Al suo rientro negli Stati Uniti, dopo un summit di Cosa Nostra in Sicilia, Buscetta racconta: «Viene arrestato appena scende dall'aereo e nell'interrogatorio effettuato dall'FBI non gli viene chiesto di questioni di droga o omicidi, ma la prima domanda che gli viene posto è: allora, lo fate questo golpe?» Lui chiede: «Quale golpe?» E l'agente dell'FBI risponde: «Quello con Borghese». Il 16 settembre 1970 Cosa Nostra rapisce il giornalista dell'Ora di Palermo Mauro De Mauro. Si saprà da dichiarazioni di pentiti di mafia che è stato ucciso, ma il suo corpo non verrà mai ritrovato. Sempre da queste dichiarazioni, nel gennaio 2001, si verrà a sapere che il giornalista è stato ucciso perché stava indagando sui rapporti tra mafia e il principe Borghese e raccontano che il principe nero si incontrò a Roma con alcuni capi mafia come Gaetano Badalamenti, Giuseppe Di Cristina e Pippo Calderone ed insieme decisero di assassinare Mauro De Mauro. Ed ora ascoltiamoci Antifascismo dei Caos Urbano. Interminables años de lucha, perseguidos por las esquinas. Ayer fuimos presos contigo también, juntos en aquella pared. Es por tus hijos, por tus amigos, es el sueño de los vencidos. Volveré a luchar contigo, mujer, pronto verlos caer. Sorda y ciega contra los pobres que se rebelan. Mandan a sus perros de caza que no saben dónde comer. Y nos guiamos por las estrellas y en el estrecho otra bandera, con la misma luz que les vimos desaparecer. Antifascismo llevo grabado en mi ser. No ganaré, ganarles porque ya está bien. Nada será como ayer. Antifascismo llevo grabado en mi ser. Tierra esta que pisas, no el trapo de las mentiras, más honrados de lo que nunca llegarán a ser. Y el capitalismo que nadie juzga es la peor de las calumnias. Y por hoy cerramos este pastel. Pronto les veremos caer. Antifascismo llevo grabado en mi ser. No trata de cagarles porque ya está bien. Nada será como ayer. Antifascismo llevo grabado en mi ser. No tragaré tragarles porque ya está bien. Nada será como ayer. Antifascismo llevo grabado en mi ser. No tragaré tragarles porque ya está bien. Nada será como ayer. Antifascismo. Antifascismo, antifascismo, antifascismo, llevo clavado en mi ser. Un'altra figura coinvolta nell'attività del Principe Nero è l'ingegner Hung Fendtwich, dirigente della Selenia e agente della CIA. L'ingegnere verrà indicato da Remo Orlandini come l'intermediario tra Borghese e il presidente americano Nixon. Il 17 marzo 1971, Paese Sera, nell'edizione della Sera, esce con il titolo a tutta pagina «Piano eversivo contro la Repubblica, scoperto piano di estrema destra». Giulio Andreotti, rispondendo ad una interrogazione al Senato, disse: le autorità di polizia, proseguendo intensificando l'azione di vigilanza a tutela della legalità repubblicana e delle istituzioni democratiche, hanno proceduto a perquisizioni domiciliari di esponenti di movimenti extraparlamentari di estrema destra, dalla cui attività potevano dedursi intendimenti eversivi. Una bella faccia tosta. E dato che gli intendimenti non sono punibili, uno dopo l'altro i golpisti se ne uscirono indenni, compreso il Principe Nero, che riuscì a far perdere le proprie tracce rifugiandosi nella Spagna di Francisco Franco. Borghese rimase comunque in Spagna anche se l'ordine di cattura contro di lui fu revocato e quindi fu prosciolto. Per il tentato golpe Borghese vengono arrestati Sandro Saccucci, Remo Orlandini ed altri tre personaggi di secondo piano. Tutti gli altri golpisti, compresi gli alti gradi, non subiscono conseguenze. Nel settembre del 1974 viene consegnato alla magistratura un rapporto del SID nel quale viene confermato il collegamento diretto esistente fra i golpisti e il presidente americano Nixon. Nel 1974 Borghese andò nel Cile del generale golpista Pinochet insieme a Stefano Delle Chiaie, di cui magari parleremo in una prossima puntata. Morì a Cadice il 26 agosto 1974. Il 28 ottobre 1976 la Giunta della Camera per le autorizzazioni a procedere esprime parere favorevole al processo contro il parlamentare del MIS Vito Micheli, ex capo del SID, per favoreggiamento del fallito colpo di Stato Borghese. Nel 1978 fu assolto con formula piena e nel 1985 la Cassazione confermò la sentenza. Nel 1980 Michele Sindona cercò un accordo con il governo degli Stati Uniti per evitare l'estradizione in Italia, dichiarandosi disponibile a fornire informazioni escluse quelle riguardanti il tentativo di golpe di Stato del 1970. Ancora oggi rimane irrisolta la risposta alla domanda perché Licio Gelli, o chi per lui, dette il contrordine a Junio Valerio Borghese? Forse per avere successivamente a disposizione dei congiurati e poter attuare un cosiddetto golpe bianco, come previsto dal piano di rinascita democratica della loggia P2, che effettivamente oggi è stato quasi completamente attuato. Ascoltiamoci quindi Antifascista degli ZSK. Insomma, concludendo, se c'è una persona in Italia che muovendosi dietro le quinte sembra tenere in mano i fili della complessa ragnatela che collega i vari punti della destra golpista, questa persona è Junio Valerio Borghese. Egli è colui che raccoglie ed ha contatti con neofascisti, vecchi fascisti, paracadutisti, ex repubblichini, destra parlamentare e extraparlamentare, organizza campeggi paramilitari, squadre d'azione, attentati, complotti, è implicato in traffico di armi, finanziamenti industriali, rapporti con le forze armate, coi servizi segreti italiani e stranieri, ha rapporti coi fascisti greci, organizza riunioni riservate alla vigilia delle bombe del 12 dicembre. Per chi volesse approfondire, ci sono diversi libri. Di Mauro Dianese e Gianfranco Bettin, La strage, Piazza Fontana, Verità e Memoria. Di Camillo Arcuri, Colpo di Stato, storia vera di una inchiesta censurata, il racconto del golpe borghese, il caso Mattei e la morte di De Mauro. Di Sergio Flamigni, Trame Atlantiche, storia della loggia massonica segreta P2. Si conclude così anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!